Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'ya bugün 2 Aralık 1962 Napoli doğumlu müzisyen Barbara D'Alessandro ya da sahne ismiyle Pietra Montecorvino konuk olacak. Şarkıcının sahne adı Foggia ilindeki Pietra Montecorvino kasabasından geliyor. İlk çıkışını 1983'te Renzo Arbore ve Roberto Benigni ile birlikte FFSS filminde yaptı. Bu filmde Güney Ruhu'nun karakterinin marşı olan çok ünlü Sud şarkısını seslendirmişti. 1991 yılında Benato kardeşler tarafından kendisi için yazılan ilk albümü Senorita yayınlandı. Şimdi biz önce Sud'u, arkasından da Senorita'yı dinliyoruz. Thank you. tu, tu vuoi sempre pazzi. Poi è finita la guerra, non tiene niente da fare. You look for a nice place, a cosa stanno poveri. You look for a nice girl, signorina. E a palla sulla mente sorda, signorina, signorina. You like a boogie boogie a Napoli, that's just a fall. A guerra, guerra, da balla, precisa da balla. Non hai capito che con me non c'è sta niente a fare. Ma se mi porta bene, ma allora sì, allora se ne va a parlare. E vengo di te, perché mi piace balla. Io parlo sulla mente sorda, signorina, signorina. Pietra Montecorvino'dan Sud ve Señorita Radyonuz'daydı. Eugenia Benato'nun Venedik Karnavalı'nda sahnelenen ve Fransa, Arjantin'de uluslararası turneye çıkan Aqua Aqua Foco Foco müzikalinin gösterisinde yer aldı. Aynı yıl başrolü üstlendi. 1988'de ise Sergio Staino'nun yönettiği Cavalli Sinache filminde kendini yeniden başrolde buldu. Arkasından başka bir Eugenio Benato müzikali olan South of Mozart'ta rol aldı. Şimdi 1988 yılından Qualcosa Arriverà ve Femmina Changi radyonuzda. Voglio mare e quante notte mezzo pane. Che adesso una sana e non mi sposta e resta sotto a mu guardare. Voglio mare camura antica più carnale. La vita sai già può far male e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuno ti può guardare. Ti voglio bene e che stasera sai non tengo cene e pazia. Io suona sana va. Fa male va lontano e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuno ti può guardare, ti voglio bene e questa sera lo sai, non tengo geni e razza, o suona se ne va. Tanto non passa nessuno e nessuno ti può guardare, ti voglio bene. E questa sera lo sai, non tengo geni e pazia, lo suona se ne va. Voglio bene e questa sera lo sai, non tengo geni e pazia, lo suono se ne va. Femmina chiangi d'amore, Qualcosa Arrivera ve Femmina Changi radyonuzdaydı. Kendisi için hazırlanan 91 yılında yayınlanan bu albümün arkasından Verona'da Rassegna della Canzone d'Autore yarışmasına katılmaya davet edildi ve Tenco ödülü organizatörlerin dikkatini çekecek kadar iyiydi. Bu vesileyle olağanüstü yetenekleri onu Mercedes Sosa ve Uta Lemper gibi birlikte etkinliğin yıldızlarından biri haline getirdi. Hem halktan hem de eleştirmenlerden övgüler topladı. Pietra, 91'de kazandığı Tenco ödülünün gala gecesine katılmaya davet edildi ve burada yılın en iyi performans sanatçısı ödülüne layık görüldü. Şimdi Monte Carvino'dan önce Amami, arkasından da Femmina, Itabella'da. Amami, per entrarti dentro dove io non posso. Diventare maschio e non averti addosso. Amami, perché ho desiderato forse troppo, troppo. Amami, per per dimostrarti quanto io ti servo adesso. Abbracciati, abbracciati, stretti più stretti, come la terra trattiene le radici senza farle morire mai. Amami per entrarti dentro dove io non posso, amami per diventare maschio e non averti addosso, amami perché ho desiderato forse troppo, troppo. Amami per dimostrarti quanto io ti servo adesso. Bevimi, confondimi con l'acqua senza respirare. Sognami come una Madonna lì vicino al mare. E in un istante non essere più niente, niente la tua amante. Portami ancora più vicino al cuore. niente. Da grida, dai, so fatte ghiaccio. Femmana, quando mi chiamo amore. Femmana, quando ti sputo in faccia. Anomi ve Femmena dinledik Pietra Montecorvino'dan. 1992 yılında San Remo Festivali'ne Peppino Di Capri ile birlikte Favola Blues şarkısıyla katıldı. 1993 yılında ise ikinci albümü Voce di Pietra'yı kaydetti. Şimdi önce Favola Blues'u, arkasından da Voce di Pietra albümünden Muri'ye kulak veriyoruz. Dove cerchi il mare, l'azzurro dei tuoi sogni, spazi più profondi, una carezza con dita di sale. E piove, cerchi il mare, sarà malato, forse poco mosso, incerto, ma hai bisogno di lui. E piove, cerchi il mare, grido di gabbia e sabbia tra le mani, una conchiglia che faccia rumore. E piove, cerchi il mare, all'orizzonte dietro queste onde eterne un tramonto non c'è. Per mano lui ti porterà lontano fino a Sud America. Solo i sentimenti quella ti rispondi, non i pulsi stupidi. Non lasciate andare, pensa di volare, lui sarà con te. Mare senza fine, mare di valere, di coralli fragili. Mare di nessuno, mare di nessuno, mare grande anima. Canto di sirena nella luce della luna nord-est. E piove, c'è stesso per te. Cerchi il mare, il salto di un delfino, un'isola vicina ed una rete per farti pescare. e piove cerchi il mare. Il suo segreto forse una leggenda antica, una favola blu. Forse una leggenda antica, una favola blu. Quando finalmente l'ultima curva è superata, la città dove si perde mille vicoli l'autostrada, la città esagerata, da lontano ti sorride indifferente. E quando finalmente quelle voci che ne dici di fermare, di sfiorare solamente la città che si nasconde dietro tutte quelle luci e quella gente. Morì, tu me lo fa morire, tutta vita affacciata all'amore. Sulì, affacciata così, che fa, si fa freddo, si chiove, e si fa se mamante, ci cercassimo qualche volta, e ogni tanto ci incontrassimo rinto scuro, e si fa se mamante, ci cercassimo una scusa, e ogni tanto mi trattassi come una sposa. Quando finalmente quelle voci, una ninna nanna lenta, sui quartieri e sui mercati, la città che si addormenta con la musica di tutti i suoi teatri. Morì, tu me vuoi far morire, tutta vita affacciata all'amore. Affacciata così, e che fa, si fa freddo, si chiove. Morì, tu me lo fa morire, tutta vita affacciata all'amore. Sulì, affacciata così, e che fa, si fa freddo, si chiove. E se fossimo amanti, ci cercassimo qualche volta, e ogni tanto ci incontrassimo rinto scuro. E se fossimo amanti, ci cercassimo una scusa, e ogni tanto mi trattassi come una sposa. Favola Blues ve Muri ile Pietra Montecorvino radyonuzdaydı. 1996 yılında onu Benato'nun yönettiği orijinal Mala Müzik yapımında gördük. Bu dönemde Pietra zamanımızın Mala Müziği olan arka sokakların çağdaş Napoliten müziğini derinlemesine araştırmaya da başladı. 98'de Roberto Murillo ile birlikte bir düet kaydetti ve Domenica Modugno'nun Resta Cumme şarkısını söylediler. 99 yılında tamamen kendi tasarlayıp yönettiği ilk gösterisi olan Napoliten Tango'yu sahneledi. Şimdi biz önce Resta Cumme, arkasından da 1956 yılında Giuseppe Faniculi tarafından bestelenmiş, 4. Napoli Şarkı Festivali'nde birincilik ödülü alan, sonra Dean Martin'in İngilizce versiyonunu seslendirdiği Guaglione'nin muhteşem Pietra Montecorvino yorumunu dinliyoruz. prima tu che l'hai già fatto. Stasera dimora da fare sta. Stai sempre a cam, puntata a cam, miezza sta via. Non dorma più, non mangia più, capo con trio. Oi piccerì, che venerdì sta gelosia. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, chi tu fa fa. Corre in braccio a tua mamma, dilla tutta verità. Passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci il fenomeno, sei ancora più sei giovane. Tu sei guaglione che ti mise in campo, vai io con pallone. ho voglia di sti lacrime, a te non mi fa ridere. Ancora in braccio a tua mamma, e non usciamo vicini. Dille tutta la verità, che non mi fa capire. Poi dici riga venati sta gelosia, tu vuoi morire, tu vuoi far frigo, tu vuoi far fan. Corre in braccio a tua mamma, non fu scemo dici riga, dille tutta la verità, che mamma te può capire. Corre in braccio a tua mamma, non fu scemo dici riga, dille tutta la verità, che mamma te può capire. E passa, spassa sotto sto balcone, ma tu si guaglione. Tu non conosci il fermano, se ancora tu sei giovane. Tu si guaglione, che ti mi sa in capo, vaglio con pallone. Che buona che sti lacrime, ma te non mi fa ridere. Corro in braccio a tua mamma, mi fa scemo che ci ri. Dille tutta la verità, che non mi devo capire. Corro in braccio a tua mamma, mi fa scemo che ci ri. Dille tutta la verità, che non mi devo capire. Önce Resta Kumme, sonra da Gualioni'ye kulak vermiştik. 2002 yılında Benato'nun bir fikrinden yola çıkarak Napoli Mediterranea kayıtlarını tamamladı. Disk Fransa, İspanya, Britanya, Almanya gibi ülkelerde yayınlandı ve 2003-2004 yılında Avrupa'da bir turneyle Pietra'nın itibarını pekiştirdi. Şimdi bu Napoli Mediterranea albümünden O Sole Mio ve Maruzzelle'ye kulak verelim. Pronto a te. Che mi fai sbattere più forte l'onna quando c'è la scura. Prima Marice si può doccia, doccia ma fai morire. Maruzzella, Maruzzella. E chi sente e chi mo canta pensa a me. Proci da rosina, se dice guarda là, una femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi sei rinta l'occhio mare, e me mi s'ampietta a me, non dispiacere. Questo occhio mi fai sbattere, più forte l'onna quando c'è la scura. Prima Maricia sì, fa doccia, doccia, ma fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Prima Maricia sì, fa doccia, doccia, ma fai morire. Maruzzella, Maruzzella. Prima Maricia sì, fa doccia, doccia, ma fai morire. Maruzzella, Maruzzella. O Sole Mio ve Maruzzella'yı dinledik. 2008'de Sanremo Festivali'ne Grand Suç şarkısıyla katılan Pietra, Wenders'ın Havana'daki Buena Vista Social Club için gerçekleştirdiğine benzer bir proje olan John Turturro'nun Passione filminde rol aldı. Şimdi önce Grand Suit'u dinliyoruz. Ejonio Benato ile birlikte yorumladıkları bir 2008 kaydından. Arkasından da Passione filminde de seslendirdiği Come Facetta Mametta radyonuzda. Grand Suit che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il Suit nel cuore. C'è una musica in quel treno che si muove, va lontano. Musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a Terrone. C'è una musica in quel sole che negli occhi ancora brucia, nell'orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia. In quel sogno di emigranti, grande come grande il mare, nella scia dei bastimenti, per le Americhe lontane. C'è una musica nei sogni di chi dorme alle stazioni, negli antichi sentimenti delle nuove migrazioni, nei milioni di perdenti della civiltà globale, vincitori della gara, chi è più meridionale. Grande Sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il Sud nel cuore. Grande Sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo col suo ritmo maledetto. Sogni di chi dorme alle stazioni, negli antichi canzoni in quel sogno di emigranti, grande come il grande mare, nella scia dei bastimenti per le Americhe lontane. Grande Sud, che sarà quella non sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo e si porta il suo dialetto. E sarà quel racconto, e sarà quella canzone che ha a che fare coi briganti e coi santi in processione. E a che fare coi perdenti della civiltà globale, vincitori della gara a chi è più meridionale. Sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo, si porta il sud nel cuore. Quando mamma da da fatta, quando mamma da da fatta, vuoi sapere come facetta, vuoi sapere come facetta, non bastassi carne per passassi carnaval, tutta quella cama a te, tutta quella cama a te. Grande Sud ve Come Facetta Mametta dinledik. Pietro'nun Napoli tarihine ait duygu ve çelişkilerden doğan güzel sesine eşlik eden enstrümanlar, gitar ve güneyli davullar, son nesil göçmenlerin büyüleyici tınıları günümüz müziğinin yeni değişimini oluşturuyor. Pietro, kendine özgü şarkı söyleme tarzıyla dinleyiciye meydan okuyor okumasına. Ama İtalyan halkına o günlerin modasına göre yenilikçi ve özel bir şekilde meydan okuyor. Bugün Itabella'dan 62 doğumlu tam bir Akdeniz sesi, Napoli'nin arka sokaklarının şarkılarının sahibi Pietro Montecorvino geçti. Bence Aslı Sayesen, Pietro Montecorvino'dan Vesta Musica Va ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Saluta e nessuna tempesta può fermarsi. Canzone con il sahara. quarta sponda, mille volte va, mille volte ritorna, e a poco diventa leggera. Va, sta musica va, chi ha fanno guidare, non io viente terra, non io viente mare, ma io sentimenti tutte mare. A può fermar, basta musica va, fino a che la da sponda, mille volte va, mille volte ritorna, e a poco fa diventa leggenda. Basta musica va, dentro cuore da gente, e non sente parole, a parla né guerra, sente sulla ricchezza chi non dà niente. Partenomar, finisce una catena.